Devin, allora, Erendor usa Seeking Light per trovare Devin. Devin para lo scheletro e poi ordina A e non ho scritto che cazzo succede. Allora, Devin praticamente non lo sappiamo che ammazza lo scheletro, cioè lo vediamo che è già distrutto se non ricordo Sì, male, e lui sentite. ci fa il catturone, cioè si rimane nascosto nel mentre ti chiede di consegnare l'artefatto. Di consegnare sì, il cuore, non lo faccio e troviamo, grazie alla roba, forchetta, cos'era, dove è messo, e poi penso che ho usato tipo l'artefatto per sparare a De no, prima mi ha sparato Devin perché non Sì. gliel'ho No, dato l'artefatto, prima l'hai non gliel'ho dato. incendiato, poi lui ti ha sparato. Poi non mi ha sparato, non una grandissima scelta, e poi ho dovuto usare la memoria, ho preso i poteri e ho tipo bloccato Devin e gli ho dato tantissime menate. E poi l'abbiamo legato di fuori e siamo entrati dentro la casa, se non sbaglio. Sì. Naya usa la magia dell'aborto sul feto. Grande. È una Buon descrizione. riassunto. Incredibile parole. Technically true. Allora, questo me lo so scritto io e penso di dirvelo adesso anche a voi. L'aborto non lo vedo soltanto io che glitcha prima di disintegrarsi. Sì. Era quel roll che ho visto soltanto io. Entra in scena il nostro lieto, Ma che come entra in scena? fa saltare la porta in aria. Grande entrata in scena. Riconosce il simbolo di Kael. Bababa. Raga, da qui in poi i miei appunti sono assolutamente gibberish. Vabbè, dopo è Chakara, nel senso Chakara, che... Chakara, esatto. E E infine si va verso tua moglie, direi. sì, abbiamo lasciato proprio a quel punto. Ok. Comunque, Devin non è morto. No, Cioè, non l'avete l'abbiamo lasciato ucciso. lì. Esatto. E state uscendo, cioè dove l'abbiamo lasciata è il momento in cui state uscendo tutti dalla casa per andare dalla moglie di Ivan. Ok? Io vi vorrei ricordare due cose. La prima, per lieto, tu 2 giorni fa hai assistito all'equivalente di un'eclissi al contrario. Ok? Sì. Ah, Questa era. cosa Aspetta, per ora non è ancora uscita fuori e nessuno ha detto niente. come funziona un'eclissi al contrario? Là è Eclissi. quando Zanzan ha pregato. È venuto giorno nel mezzo della notte. Ah, ok. Il Comodo 3000, dai. Sì, era un Aspetta, modo. perché di questa cosa non avevamo parlato, per No, lieto. te la Cioè, sto dicendo così, se vuoi usarla come ok. aggancio. La seconda cosa è che Kael si sta comportando in modo strano da un po'. E io direi che non ho nient'altro. La strada per andare nel posto in questione la sa Ivan. Voi non avete idea di dove vi sta portando. Molto bene. Ok, benissimo. Da qui vi descriverò un pezzetto di luogo di cosa vi circonda e poi man mano voi mi dite cosa volete fare, se volete parlare, se volete cambiare strada. Eddie mi sa che non ce la stiamo facendo a tenerlo oggi. Sì, Mi sa che con la webcam non ce la fa. No, stai è che senza mi King. si blocchi tu, Bianic. Ma Mi dà fastidio vederti bloccato. a noi Non è che vediamo. puoi cambiare paese, perché anche a me ti bloccavi un botto In prima quando ero dall'altro che telefono. senso puoi cambiare Rica, paese? fallo te se vuoi. Faccio io, sì. Ah! Ma dove volete andare? Uno vicino. Più Uno vicino. vicino, ok. Vicino, vicino. Sfortunatamente. Siamo in Attenzione. Netherlands, mi spiace. Rewind. Oh, va bene. Bella. Quindi è legal. Dai, ho Yeah. 102 di ping. Yeah. E sì, io ho ancora Eddie Glitch, ma a Ciao. sto punto probabilmente ho un problema. Io dovrei riavviare il computer, ma No, non lo farò. come? No, non è vero. Sì. Sì, sì. Io ti vedo normale, però ogni tanto casci. Quindi... E allora è Pjanic. Esatto, ogni tanto si no, ma se io che esco. No, io non vedo nessuno. Sì, sì, andiamo, sì, avanti. Andiamo avanti. Come dicevo, vi descrivo un pezzo. Ah, il bot va riavviato perché me l'hai ucciso con sta cosa qua. Stavo per dire. Sì, sì, sì, il bot non. Però non il bot ripartirà essere. Dalla prima canzone della lista, perché non c'ho modo di farlo ripartire da dove voglio. Soprattutto perché è nuovo e non lo conosco. Non siamo ancora così così intimi. Inconfidenza. L'altro ti ha mollato. L'altro è la mia troia, infatti mi ha mollato. E fa ridere per motivi che non stiamo a... Vi morto descrivo... un bot, se ne fa un altro. Esatto, come il Papa. Descrivo un po' di scenetta, vi dico cosa c'è intorno a voi e poi voi scegliete cosa fare. Che cosa cazzo è partito? Cos'è sta roba? Sembrano quelle canzoni standard che Toys K-Pod. Non so, è aperta la canzone sbagliata. Green Day, probabilmente. Che adesso? Merda. Vabbè. E la prima scena è che uscendo dal cortile vedete Devin crocifisso dalle piante, ovviamente. Questa è proprio la prima cosa che vi si para davanti. Ivan vi farebbe strada verso destra, chiaramente, che è verso il centro città, sud-ovest. Ignorate Devin? Sì. Sì. Vabbè. Kiel lo fissa per un lungo momento prima di seguire il resto del gruppo e continuare verso il centro città. Io aggiungerei che non è una buona idea lasciarlo in mano all'impero, però vabbè. Se lo volete uccidere, fate voi. Io me ne lavo abbastanza le mani di questo pacco. Un po' esagerato, però. No, non... Vabbè, vabbè. Non mi pare che possa fare nulla, onestamente. Può rivelare informazioni che non vogliamo far sapere, magari? Non è assolutamente un motivo per ucciderlo. Non penso che sappia abbastanza, no, di noi. Alla fine è stato, no, molto per i cavoli suoi. Allora, Madonna non aggiunge altro. Se avete, io non so se avete voi qualche magia particolare, però io non posso fare nulla per lui. Possiamo farli impazzire, ma sciogliete di quello. Come volete voi. Proseguiamo e basta. Penso che arriveranno quelli dell'esercito. In ogni caso, quindi lasciamo perdere. Vabbè. Abbandonateli, Devin, quindi. Mm-hmm. Proseguite lungo il percorso che va verso sud, il sentiero di terra battuta. Vai avanti, Pjanic, credo subito. Sentiero di terra battuta rimbomba con ogni vostro passo, visto che è completamente vuoto e senza rumori di nessun tipo, finché non arrivate ancora belli distanti, ma abbastanza vicini da sentire in lontananza il rumore del fiume. La città è relativamente buia, un po' particolare, nel senso di solito c'è un minimo di vita notturna, però sono anche le 3 di notte, quindi forse è quello il punto. E non c'è un'anima viva intorno. Ci sono degli alberi, fa fresco, freddo. Forse è solo per quelli di voi che non sono abituati, cioè sono abituati a climi molto più caldi, ma tendenzialmente ci sono 15 gradi, una cosa del genere. Cioè, all'aperto è ok che ci sia una temperatura del genere. E che ore sono? Sono circa le 3 di notte, passate le 3 di notte, okay, da poco. E infatti cominciate a accusare la stanchezza, il sonno, però non così tanto a dovervi fermare. Se volete fare qualcosa, altrimenti proseguo. Non dica di no. Segue. Proseguite in silenzio, in una marcia quasi funebre, tutti seguendo Ivan e la sua palla di sterpi, che a quanto pare contiene l'artefatto, e raggiungete il ponte dopo diversi minuti di cammino. Il ponte è molto vecchio, molto antico, però bello resistente, si vede che è stato ristrutturato, eccetera. C'eravate già passati all'andata. Vederlo di notte sembra quasi un altro posto. L'illuminazione è ridotta veramente al minimo, ha proprio un paio di lampade magiche, essenzialmente funzionano così, alimentate a manapenny sul ponte, e che fanno luce sull'acqua, e vedete che l'acqua è mossa, cioè agitata, come se il fiume, non dico fosse in piena, ma si stesse avvicinando il brutto tempo, diciamo, il vento si alza. Di nuovo, anche sul ponte non c'è un'anima viva, è proprio completamente deserto sto posto. Il grande ponte a nord di Oclica è vicino a un'isoletta, quindi vedete questa isoletta sulla quale c'è una casetta, eccetera, eccetera, quindi è anche caratteristico. Essendo molto buio, vedete proprio l'outline di queste cose. E da qui si vede la cattedrale, si vede la guglia della cattedrale, che sarebbe a poche centinaia di metri da voi, mentre Ivan si sta dirigendo in direzione quasi opposta alla cattedrale. Prego. Non credo che Adone faccia niente in particolare. Cioè, segue Ivan. Kael, Era come già sta? dibattuto. Scusa. Vado da Kael. Kael si sta muovendo sempre in modo un po' artificiale e rimane in silenzio vedendo che nessuno di voi parla. E le chiedo se sta un po' meglio. L'aria fresca rilassa. Cioè, il suo modo di parlare rispetto a prima, com'è? Ha detto cinque parole in croce, quindi per ora sembra simile. Ok. E le chiedo se, ora che è passato un po' di tempo, si sente meglio dopo che Lieto ha tolto il campo con cui anche lei aveva interagito, tutto quello che sembrava poter essere una causa del suo malessere. È possibile che sia cambiato qualcosa. Cos'è che ha fatto Lieto? Ha tolto, si dice, dispellato la protezione che avevi indebolito tu prima, quella intorno alla casa. Ho capito. No, non mi sembra che fosse parte del problema. Sono solo stanca. Ok. Va bene. Siamo quasi arrivati, comunque tra poco riusciremo a curarci e magari dormire un pochettino. E Ivan vi rassicura mentre vi fa strada lungo la parte sud della città, attraversando, puoi fare o i vicoli o la strada maestra, come vuoi. Ho paura che nei vicoli, dico a tutti quanti, ho paura che nei vicoli siano stazionate delle guardie. Solitamente a volte si piazzano lì per beccare piccoli criminali. Quindi starei sulla strada maestra, magari. Sì, meglio, anche perché non vorrei proprio incappare in dei criminali. Ma No, noi siamo non vorrei criminali. incappare nelle guardie, più che altro. Sì, ma raga, abbiamo 0 punti vita! Dio Cristo! Stiamo andando a metterci a curarci un attimo. Cioè, appunto, a prescindere, cerchiamo di non incontrare né guardie né L'obiettivo è criminali. quello, sì. Qualcuno sa qualche magia Dio che possa Cristo. nasconderci, occultarci, qualche magia di occultamento? Lieto scuote la testa. Scusa, ma puoi descrivere un attimo questa strada? Se vedi particolari persone, cose, o è vuoto come tutto il resto? La canzone è sbagliata. Molto. Vedi un po' Grazie, tanti ma ho climax. paura. Com'è la Ma strada? lasciala, Lo cioè. sbatto. Esatto, cioè. Teniamo questa. La strada principale di giorno è quasi allegra, è la strada di un centro storico dell'anno 1000, architettura post-gotica, diciamo, quindi grandi palazzoni con decorazioni sulle fronti, sulle facciate, sulle porte, tutto molto dettagliato nel suo essere antico. La strada maestra è larga tipo 16 metri, è molto larga, ok? Ci passano due carri e due file di persone da ogni lato. Mentre i vicoli non sono pensati come strade, ma è semplicemente lo spazio tra una casa e l'altra, che presenta appunto o terra battuta o lastricato molto semplice, cioè non c'è uno studio architettonico su come costruire i vicoli. A meno che la casa non sia di una persona importante, ma questa zona non è così. Quindi anche un po' uneven, cioè scoscesa, ci sono dei buchi, eccetera. Mentre la strada maestra invece è tenuta molto bene. Jack? Dimmi. Devo chiamarti Rose? No, ah, ok, posto. E c'è gente o no? Scusami. Allora, sulla strada maestra qualche persona c'è. È molto grande, quindi vedi quasi 2 chilometri di strada. È molto grande e dritta, completamente dritta. Mm-hmm. Vedi fino all'orizzonte. E qualche persona ovviamente c'è. Nel buio non si vede benissimo, però qualche persona, cioè qualche oggetto nero all'interno del marciapiede si vede. Sono particolari o semplicemente tizi? Tizi. Oh. Dal quello che puoi vedere, uomini vestiti con abiti scuri. Va a rapinare qualcuno. E vai. Lei a chiedere a Lieto, dato che Lieto aveva detto comunque che era della zona, se la città è solitamente così deserta. Non so, questo quartiere non lo conosco, però a quest'ora di notte sì, comunque. Dico in più che in genere ci sono le guardie che e adesso non ci sono, perché sappiamo, I guess, perché se ne erano andate. Ok. Quindi sì, non mi pare particolarmente anomala questa situazione, ecco. Nonostante io, again, non conosca il quartiere, quindi mi sembra un quartiere abbastanza povero, I guess. Stai ancora sulla strada maestra, cioè è il centro storico. Pezzenti. Ok, se nessuno di voi vuole fare qualcosa di particolare, continuate sulla strada maestra il più possibile. Giusto? Mm-hmm. Benissimo. Percorrete un chilometro abbondante su questa strada, passando di fianco a delle persone, quelle poche persone che ci sono, che rimangono molto incuriosite da Kiel, mentre il resto del gruppo gli sembra relativamente normale. Persino Ivan, che ha una palla di sterpi sotto braccio, non dà così tanto nell'occhio. Alla fine trasportare cose è abbastanza normale. E mentre invece la donna metallica dà nell'occhio. Effettivamente al primo gruppo di persone che hanno questa reazione, Naya si toglie il cappottone e lo dà a Kiel, così almeno... Ma non ho freddo. Forse è meglio non attirare troppa attenzione. Ah, potrebbe avere un senso. E proseguite. A un certo punto, a un certo incrocio, Ivan sa di dover andare a sinistra, di dover entrare nei vicoletti. E io guardo Naya e gli chiedo, ma la tipa robotica è sempre così particolare o è solo oggi che... In realtà è nell'ultima oretta, penso nell'ultima ora / due ore che è cambiata un pochino. Ah, ok. Poi sembrava molto in... appropriato comunque il comportamento vista la sua natura, ecco. No, è decisamente stanca e strana in questo momento. Ripeto, Ivan, dimmi te come glielo vuoi segnalare che devi girare a sinistra per andare al bar. Tipo i soldati che fanno con le dita accanto alla testa, tipo. Ok, quindi molto silenziosamente vi facenno e girate. Ora state entrando nei vicoli. I vicoli sono diversi, il pavimento è fatto di ciottoli uneven, appunto, come dicevo, quindi ne mancano alcuni, altri sono rotti, bisogna camminare facendo attenzione, specialmente considerando che ora è buio. Ci sono alcune lampade, però ogni 100 metri, quindi è buio. Ivan chiaramente conosce benissimo la strada e sa la strada più veloce per arrivare nel luogo. E più che l'estetica dei palazzi da questo lato, vi colpisce l'odore di sporco, di stagnante che c'è all'interno dell'area. Quindi di urina proprio, di una roba brutta. Di Milano. Bologna. L'odore di Milano. Firenze per me. Ognuno ok, c'ha, Venezia c'ha la sua. Esatto. E a quanto pare Ivan ci ha abituato, qualcuno di voi meno. Potete reagire come volete, nel giro di pochi minuti arriverete a destinazione. Quindi ditemi se volete interagire, altrimenti arrivate. Dieta è sufficientemente disgustato dalla stazione. Cerca di non toccare niente, tipo in punta di piedi, doggia al possibile. Penso che dopo le giornate che ha avuto Raya dell'odore non gliene frega proprio un cazzo di niente. Ha le narici che sono ancora piene dell'odore di carne bruciata dopo aver fritto il feto. Fritto misto. Ok. Lush. Passano altri minuti in cui accelerate il passo proprio perché non sopportate l'odore. E infine arrivate. E mi prendo il mio cazzo di documentino. Arrivate all'esterno del bar. Come vi diceva Ivan, ha un bar gestito da un suo amico dove si trova spesso. Ed è un amico fidato, qualcuno da cui vi potete fermare. E non so se ve l'hanno detto, comunque Adone ha fatto arrivare un messaggio al proprietario del bar e la moglie di Ivan di rintanarsi in questo posto. Dicevo, l'esterno del bar è spoglio, ad eccezione dell'insegna che nel buio si vede a fatica. Sembra esserci scritto Unlucky Blends o qualcosa del genere. Sembra essere scritta tra l'altro in una lingua del nord, non di Trice, di un'altra zona del nord. Gli scuri alle finestre sono ben chiusi, non ci sono luci accese e non vola una mosca. Nonostante l'ora tarda, è abbastanza strano per un locale della periferia, anzi, in lontananza, separati da questo locale, dai palazzoni intorno, ci sono altri locali e avete visto un pochino di gente, quindi gruppi di 3-4 persone agli incroci in particolare, o proprio in una delle case che le circondano, oppure in uno dei vari locali più o meno abusivi, più o meno clean. Va molto di moda a quanto pare avere bische clandestine e cose del genere. Vuoi aggiungere delle descrizioni, Gin? No, penso che l'hai resa abbastanza. Perfetto. Il portone è di legno ed è chiuso. Toc toc. Fai una bussata particolare? Ma sì, tipo la mia solita bussata di quando arrivo a ora tarda. Ok. Silenzio per un paio di secondi. Sentite un rumore provenire da una finestra del piano di sopra. E poi dei passi provenire dall'interno. Uno spiraglio della porta si apre e un singolo occhio sbuca da questo spiraglio, che squadra da cima a fondo Ivan, che è quello davanti a voi, e dice: non pensavo di vederti. Ed è? È buio. Dayton. È molto buio, ma la voce è quella di Dayton. Dayton, faccia entrare, poi spieghiamo. Lui, prima di farti entrare, squadra uno per uno tutti presenti. Sembra dire una frase, però non capite se sta imprecando, se sta dicendo la bofonca. Andate, attraverso la saliva, sto per morire. In diretta, sarebbe terribile. Dicevo, però nessuno di voi ha capito quello che ha detto. Quindi chiude la porta, sentite il rumore di alcune cose che vengono sbottonate. E poi la porta si apre. Vedete un uomo vestito in maniera elegante, nel suo essere vestito come un barista, quindi una salopette, una camicia, niente di eclatante. Quelli di voi che hanno l'occhio per queste cose notano che le sue scarpe sono di pelle abbastanza ricercata. Il resto dell'outfit in realtà è ben fatto, è pulito, è ben tenuto, però è normale. L'uomo è, non dico timido, ma confuso dalla situazione, quindi esita un attimino. E... gli do un abbraccio, tipo molto manly abbraccio, di quelli proprio. E lui non è neanche un po' a disagio con questa cosa, dice, sì, mi sembra proprio la cosa giusta da fare ora. E entrate pure, e fissa Kayel, e Kayel lo fissa. E questo momento sembra eterno. Prego. Ti prego non farle entrare in battaglia. Vabbè. Qualcuno spiega che è alla... Appena entriamo, comunque Adone vorrebbe un attimo ringraziare Dayton, giustamente. Dice grazie per l'ospitalità, in ogni caso. E poi vedendo un attimo l'interazione che... che c'è fra Kayel, dice lei sta cercando un attimo di capire cosa dirgli e cosa non dirgli, e poi alla fine dice con lei lavorava alla centrale, ci ha aiutato ad arrivare fin qua, quindi il minimo che possiamo fare per lei adesso è accompagnarla, farla stare con noi. Lui ti guarda. Ti guarda confuso e dice, amico mio, non tenterà di mangiarci, vero? No, non preoccuparti, Kayel è solo particolarmente stanca al momento. Aya si aggiunge e dice, con voce abbastanza seria e un po' triste, ringrazia Dayton e gli dice, lei è stata meno fortunata di noi. Non so quanto tempo siete stati in quarantena, immagino che siete stati con Ivan in quarantena, altrimenti non sareste qua. Esatto, ma... sì, siamo stati con lui. C'è un sacco di gente come lei in giro. Beh, con meno pelle. Della porta. Davvero? E dice, sì, e si stanno mangiando le persone per strada. Siete sicuri che lei non ci sbranerà tutti, vero? Sì. Se non l'ha fatto fino ad adesso, è così da giorni. Lei ha Adone non è così convinto, però... esatto, questi cambiamenti... Sono sicuro che con una sigaretta tornerà la Kayel di sempre. Allora, però la sigaretta lieto ne estrae una. Ora mi devi rollare persuasione, però, con Naya. Io? No! Sì. Porco Dio. Deve rollare persuasione? Perché la persuasione si letterare, non ho capito. Ha detto, sono sicuro che una sigaretta... sono sicuro che una sigaretta tornerà normale. Ah, vabbè. E lui non ci crede a sta cosa. Eh beh, immagino che non ci crede. Già, intanto prego, Kayel... Naya, ti prego, per tanto favore. Kayel, mi vado... Oh! Ne vuoi aggiungere un altro? Cosa hai fatto? Mi sa che ho un 10. 20 puro. Mamma mia! 20. Bravo, Naya! Mua. Dayton si gratta la schiena, si mette in posizione un po' tranquilla e dice: beh, non ho motivo di non fidarmi degli amici di Ivan. E immagino che anche la signorina abbia un'ottima storia da raccontarci, per cui se Ivan garantisce siete tutti i miei ospiti e vi fa vedere, cioè, vi fa entrare il locale. Gli presento tutti quanti così in modo che... Gli abbiamo dato un cognome a sto uomo. Nome. Dayton penso Dayton che sia Dayton. Il cognome. Ah sì? E allora gli diamo il nome più falso di tutti, glielo chiamiamo John Dayton. Ti piace? Bellissimo! No, Jack Dayton. Jack Dayton, venduto. E si presenta a tutti voi uno per uno, stringendo la mano. Jack Dayton, proprietario dell'Unlucky Blends. Lui non lo sbaglio. Mm-hmm. Proprio l'Unlucky Blends. Proprio lui. Sta tutta farina del sacco di gin. Immagino. No. We don't know anything about it. Esatto. Naya gli stringe la mano e lo ringrazia. Ma nel frattempo, Lieto quindi date la sigaretta a Kiel? Sì, se lei la vuole. Lieto. Kiel l'accetta, gli è stata data. Grazie, Lieto. Prego, qualche te l'accenda? Ah. Sembrava diverso dal solito. Off character, questo ci ammazza tutti. Off character. Preoccupare si risolve con un abbraccio. Dayton, che è un uomo un po' più pratico mentre loro fanno le loro sigarette things, ti dice: che cosa hai sotto il braccio, Ivan? Sì, questa cosa ci ha un po' messo nei guai. Come gliela posso spiegare? Forse è meglio se non glielo spieghi. Diciamo che dobbiamo sentire con Tea di questa cosa che abbiamo trovato. È al piano di sotto, ma prima vi scoccia se... Vorrei essere sicuro che non ci sia niente di pericoloso lì dentro prima di portarle di sotto. Per proteggere te, ovviamente. Certo, Dayton. No. E quindi... Io mi fiderei di lui, onestamente, però... Ok, quindi vi fa sedere. Il locale è relativamente piccolo ma accogliente, i divani sono foderati in pelle, cosa che non è per niente scontata, anche le sedie al bancone sono foderate in pelle, quindi sono molto comode rispetto a quelle che trovi in un normale locale. C'è una cura maniacale delle bottiglie, delle cose dietro, quindi sono ordinate in base a criteri suoi, ma si vede che hanno un ordine. E lui si mette dietro il bancone come se foste ospiti e vi fa sedere quasi assegnandovi a ciascuno il posto. E pulisce un bicchiere, prende un... Qua si beve birra, mi spiace ragazzi, però ecco. Oh, sì! Non posso neanche chiedere un whisky. Forse ce l'ha il whisky. Shut up, però... Brian. Oh, yeah. Però per i motivi questo sbagliati. È Brian, anche non è dietro alla notizia della birra, tipo, non è entusiasta. Purtroppo in questa città quello va di moda e quello si vende. Noti che condivide la tua passione, diciamo. E prepara bicchieri per chiunque li voglia, col whisky per chi l'ha chiesto, a quanto pare lo ha. Particolarmente invecchiato, un sapore esotico, non ho mai bevuto alcolici in vita mia, io non so di cosa sto parlando. Però se va bene un torbato almeno 12 anni. Infatti, di solito i whisky sanno di terra più che altro. No, prova a dire delle cavolate, castronerie, tipo sa di... legno d'acero. ti lascio l'interpretazione che vuoi al netto del molto invecchiato, relativamente costoso, esotico, almeno per sto posto qua. E me la sono cavata perché comunque sono tutte cose accettabili per qualunque cosa di cui possiamo parlare, tra l'altro, cioè... Vabbè, sì. Dialettica. Guarda, credo che gran parte degli aggettivi li potevi applicare anche a Zan Zan. Esatto, esatto, hai visto? Invecchiato il giusto. E... Quindi prende i bicchieri, ve li porge a ciascuno, si siede al bancone e dice: tua moglie Ivan è al piano di sotto, sta preparando una cosa. È meglio che non la disturbiamo. E per ancora qualche minuto. E vorrei conoscere i tuoi amici. Vi ospito, ovviamente. I tuoi amici sono miei amici. Però... ecco, devo sapere che non sto mettendo in pericolo tua moglie, prima di tutto. E mia moglie, chiaramente. Ma pensi che io voglia mettere in pericolo mia moglie? No, ma ho paura che possano averti ingannato. Chi? Chi potrebbe avermi ingannato? Non lo so, vorrei sentire le storie di questi gentiluomini. E quindi vi guarda uno per volta. E... sì, dai. Quello che ha ordinato il whisky coglie per primo la sua attenzione. E lui dice subito: il tuo accento è forse il più esotico qui dentro. Da dove vieni? A me o a Lieto? A te. A me. Ok. Allora, Gideon è stanco, stremato, cioè le occhiaie, ha bisogno delle sue 8 ore di beauty sleep almeno. Dice che viene da nord, molto nord. Ha viaggiato un sacco per vedere come funzionano le centrali. E sta pulendo un bicchiere. In realtà ha preso un bicchiere che era già pulito e lo sta pulendo per fare qualcosa con le mani. E ti dice: dalle isole, immagino. È considerata le isole? No, sì? No. Disney, nel senso... cioè io immagino quelle scozzesi, se sì, dici esatto. Le isole. Ah, lo correggo, gli dico Ufarland. Ah, vieni da molto lontano. Da un luogo senza centrali. Esatto. Sto cazzo di bot, Dio porco, non... è partito il jukebox. C'è l'equivalente di Fonzi. Ah, mi piace. Non siamo soli nel locale, c'è un'altra persona che sta giocando. C'è solo Fonzi che è lì. C'è letteralmente Fonzi in Fateless. Vabbè, gli anni hanno quelli, no? Porco Dio! Sara, se ti do 2 euro mi fai andare tu il bot? Infatti. Vabbè. Ok, ritorno in character. Avevo detto, l'avevo corretto, sì, Ufarla, sì, sì. Non ci sono le centrali, gli dico esatto. Ho capito. E quindi ti trovi qua per nessun motivo. Per capire come funzionano le centrali. Ah, capito. E non ti fai problemi a dirlo in giro? A questo punto... sai cosa? Hai ragione. Muove lo sguardo verso il biondo e dice: i tuoi occhi mi sono familiari. Beh, vieni da Scirocco, giusto? Ma dalla tua accento. Sono di Lonera, io. Certo, grande Lonera. Fantastico, ci sono stato. Molto, molto caratteristica, interessante. E cosa ci fai qua tu invece? E indica Gideon e dice: eravamo tutti parte della stessa visita alla centrale. Ah. E, io per motivi di studio. Mi chiamo Naya Petri e... Sì, vi siete già presentate, ti stai ripresentando, okay. Se lo fai come vuoi. Cioè Naya è molto stanco, glielo legge in faccia che ha gli occhi che si chiudono uno alla volta, che sta malapena in piedi. E... ti dà un colpetto sulla spalla dall'altro lato del bancone e ti dice: beh, deve essere difficile essere il rampollo di una famiglia nobile, vero? Ah, ma io che ne so, sono solo un povero barista. Naya lo fissa confusissimo. No reaction a sta cosa? Cioè, oltre alla confusione. Adone sta iniziando a sentirsi un po' stranito, però tipo, risata nervosa, però ok. Cazzo vuol dire rampollo? I guess lieto unito i puntini. Aspetta, ci arriviamo. Okay. Però non posso, il mio personaggio no. Poi si muove verso un'altra persona e dice: ma se ho capito bene, se vi ho inquadrati, e comunque facendo questo lavoro un minimo si impara a conoscere la gente, tu, è indicadone, anche tu sei uno studioso, vero? Dall'accento vieni dall'est, nord-est. Trice? Più sud? No, no, vengo da Falchena. Falchena, certo. Accenti simili. E dimmi, anche tu per studio, vero? Esattamente. Bene, bene. Tu non sei nobile però, vero? Fa un piccolo sorrisino e dice: no, non lo sono. Si vede, sei un uomo del popolo. Riesci a confonderti tra gli altri, mentre lui, il biondo, lui dà nell'occhio. Adonai non sa come sentirsi, se è lusingato o offeso. A sorriso. È la dota del plebeo. You do you. Sì, infatti, quindi... Però Adonai sorride e dice... No, non farebbe frecciatine Adonai. Vabbè, sentite... Voi due, invece? Però è un po' stanco, potrebbe. Voi due? E cambia discorso, cioè ti interrompe. Maleducatamente lo decidi tu. E indica Erindor e Lieto. Voi due avete un accento del nord di Scirocco, giusto? Beh, vengo anch'io dalla Nera, quindi direi... Ah! Che strano. Io vengo da Medulla. Quello l'avevo sentito bene. Dalla Nera. Cos'è che ha detto Lieto? Che viene da Medulla. Ok. Naya sente questa cosa. Sì. Sì. This will have consequences. Sì, sì. E... O se vuoi ci mette un figa. Figa. E anche voi... Non siete nobili, noto. Io faccio... Lo ero. Ha! E a questo punto ti facendo... Erindor, scusami, Lieto, ti fa cenno di avvicinarti di più, ti mette una mano intorno al collo e dice: la nobiltà è nel sangue, non è negli averi, nella storia. È nella bontà nell'anima. D'animo. Esatto. Per cui... Chiudere la questione in fretta. Se sei nobile, lo rimani per sempre, altro che. Suppongo. E tu invece, ragazzino, sei il più giovane qui dentro, puoi già bere? Sì, posso decisamente già bere, anche perché Medulla si beve molto Medulla. Prima. Medulla? Medulla, sì, io vengo da Medulla. Nea si gira verso il Lieto e lo fissa bene. Ci siamo già visti, vero? Ma... Io guardo la cosa e dico: non mi piace dove sta andando qua. E Nea ti indica, bocca spalancata. Sì, adesso tutto torna. Tu sei la figlia di... Sì. In che... Ma... Hai detto che tua madre... E io a sto punto dovrei aver collegato. Nea sbianca, cioè non riesce proprio a finire la frase, è in crash. Posso fare cenno al barista di avvicinarsi, sai, in confidenza? Dobbiamo anche cambiare canale o me lo puoi dire? No, proprio. Vai. Spill al tea. Io non so niente di queste storie dei nobili di qua. Che cos'è che stanno... che sta succedendo? Ma guarda, fatti loro nello specifico non li so, ma diciamo che da quando l'impero nel suo essere democratico è diventato un po' più improntato all'esercito che non al retaggio, ecco, c'è stato un decadimento di tutti i nobili. Quindi ora essere nobili non serve a un cazzo. Se lo dice proprio. E quindi è incredibile scoprire che qualcun altro è nobile. Sì, è come sapere di avere, non so, avuto una casa vicino da piccoli. Ah, wow. Gli chiedo un altro bicchiere di whisky. Certo, siete ospiti. Tanto paga pantalone. Vedendo questa interazione... Adone dice: cugini? Indicando voi due. E Nea è tipo... non sa rispondere. Cioè, lo vedi che balbetta, che cerca di arrivare a una frase, ma non ce la fa. E a me va di traversa la birra. Insomma, come sta la zia? Si mette tipo le mani in testa e si appoggia al bancone. È tipo: no, non ho capito. Non ho capito. Ora è lui che attira a sé Gideon e ti dice: fa sempre così quello? Sì, in generale sì, Gideon è un pochino brillo dopo, giusto un poco dopo. Dice: sì, molto, molto spesso in realtà. Chiaro. Adone dà una pacca sulla spalla a Naya. Dice: mi sembra una reazione un po' esagerata. E Naya mette le mani sulle spalle di dietro e lo fissa negli occhi e fa: non ho capito, spiegami tutto. L'albero genealogico. Mica, con Naya ci vorrebbero degli anni. Dio porco. Ma io stavo solo chiedendo come sta la zia. Ci siamo già visti, non so se ti ricordi. Sì. Ma tu hai detto che tua madre... Non sto capendo Naya, non stai capendo tu, Rob? Naya non sta capendo. Dagli un attimo, poverino, sto avendo le rivelazioni dell'anno, sto povero coglione. E ti dice: ok, ripetimi chi è tua madre. Hai conosciuto mia madre? Ho detto: ripetimi chi è tua madre. L'hai conosciuta quando hai conosciuto me, quando ci siamo visti l'ultima volta. Perché non vi siete introdotti come madre e figlio? Perché il nostro rapporto non è dei migliori. Ma... Perché l'hai chiamata Promezia? Perché è il nome con cui vuole farsi chiamare fuori dalla famiglia. O comunque fuori da quello che sono il circolo degli affari. Dentro la famiglia. Naya ti fissa! Confusissimo! Proprio... Ma di che cazzo sta parlando questo qui, porco Dio? Se non fossimo in presenza di terzi, io gli avrei già detto delle cose. Naya tipo... Quindi siamo cugini? A quanto pare. Ma tu lo sapevi? Mi è stato accennato dopo che te ne sei andata. Andato. E Naya è tipo: scusami, non penso di essere in grado di reagire a questa informazione in questo momento. Non ti preoccupare, nel caso non ci siamo mai conosciuti. Comunque la nostra famiglia non è che sia esattamente legata. Abbiamo pranzato se... abbiamo... Io... Sì, vabbè, ma è stata una volta... Mai... Perché 4 anni fa? Sì. Perché? Ok, va bene. E si mette a bere la birra. C'è proprio la tacana giusta quanta. È tipo ok. Fa un ispiro. Sai cosa? È ok. Va bene così. Ci penserò domani. Beh, traccando giù la birra proprio con gusto, è proprio ah, ormai nulla ha più senso. Mi resta da presentarmi alla nostra unica ospite del gentil sesso, dice Dayton. Kael, intuendo a grandi linee che si sta parlando di lei, che finora non ha né bevuto né fatto niente, era rimasta in piedi a fumare. Ma se beve non gli cade giù tipo scheletro la birra. Sarebbe interessante da provare, non lo faremo. Si arrugginisce. Fanny si avvicina e dice: che cosa vuoi sapere? Beh, tutto. Com'è possibile? Ho sentito di un paio di... ho visto con i miei occhi un paio di persone fare una brutta fine e diventare quasi così, senza la pelle al centro della faccia. Però morivano. Tu invece mi sembri, a modo tuo, molto viva. Esatto. Sono stata protetta. Vi guarda e dice: uno di voi che parli normalmente non ce l'avete, eh? No. Per amore. No, no. Ci sta. Sono abituato a parlare con tutti. Io faccio il barista, d'altronde. E... sempre fatto il barista, tra sempre fatto il barista, sempre, sempre fatto il barista. Fin da piccolo ho sempre fatto il barista. Da lavoravo... una famiglia di baristi. Da una famiglia di baristi. Lui non c'aveva i... Mio padre era un barista. Mio padre era un barista. Lavoravo nel suo bar da piccolo. E poi ho aperto un'attività nella più grande città del mondo, ovviamente. No, dicevo... non mi sembra normale sta cosa, signorina. Lo devo dire in maniera molto onesta. È vero, sono stata protetta, ma ora sto bene. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Sono solo stanca e faccio fatica a parlare. Sono certa che domattina tornerò al mio solito stato. E Lieto non è così familiare con questa persona, quindi non è che si fide esattamente. Quanto gli sembra vera questa cosa? Quanto a Dayton. Non quanto tantissimo. Dayton. Non tanto. Ok. Adone coglierebbe un attimo la palla al balzo in questo momento e scorgendosi un attimino dice: e stavi, hai appunto detto che ci sono persone a cui si stacca da pelle. Noi siamo stati per gli ultimi 5 giorni in quarantena, sapresti dirci cosa sta succedendo esattamente? Non vi facevano leggere i giornali? Non c'erano notizie al riguardo. C'erano? Che giornali vi hanno portato? Non menzionava nulla di tutto. Da quant'è che sta succedendo quello che sta succedendo per le strade? Il primo caso è stato circa la settimana scorsa, una donna importante lavorava nella centrale, ma nei giorni successivi sono esplosi cani e porci, cioè gente dell'esercito, civili, gente che veniva da fuori. Non solo ad Oklica è esplosa gente... Nessun giornale... No, i giornali l'hanno portato e come sta notizia? Ecco, tira fuori un giornale con, come si dice, un publisher diverso da quello che avevate voi. Che dice si moltiplicano i casi di esplosioni e di attacchi da creature meccaniche, scheletri meccanici. Questi cavoli di giornali di sinistra. Adone prende il giornale e lo legge su, cioè inizia comunque a dare un'occhiata. Dice... cioè, lo dice proprio con delusione. Ovviamente l'esercito non ci ha fatto arrivare queste informazioni. È anche per questo che non c'è nessuno in giro. Perché ci avrebbero dovuto mentire su una cosa del genere? Cioè, era irrilevante. Eravamo comunque bloccati. Non è che hanno fatto un giornale solo per noi, ma è di propaganda di partito. Di partito! Vabbè, lasciami gergo. Imperiale. Penso che abbiano fatto in questo modo per non mandarci tipo anche nel panico, che sapevamo che was going on. Uno di voi poteva essere vittima di questa cosa, in effetti. Eravate in quarantena, avete detto, no? Erano. Sì, ma a posteriori posso dire, penso che ci abbiano tenuto lì per qualche altro motivo. Gli stavamo scomodi, probabilmente. Decisamente, visto che comunque non è che la quarantena sia stata applicata a tutto il resto. Infatti, Dayton, ti ho chiesto di tenere sicura mia moglie perché ti volevo anche avvisare che sarebbe successo qualcosa, che le guardie probabilmente vi sarebbero venute a cercare se fossimo usciti dalla quarantena o se non ci avessero trovato. Per il momento non è venuto nessuno, quindi sono stato fortunato, forse. E forse hanno pesci più grossi da pigliare. Può essere. C'è un turmoil in tutto l'impero. I casi inizialmente erano solo ad Oclica, ma da ieri, forse ieri l'altro, sono iniziati anche altrove. En passant, Lieto, tu hai una idea abbastanza precisa di sta cosa qua, eccetto negli ultimi 2-3 giorni in cui non hai più letto i giornali, eri focused nella tua ricerca. Quindi te l'hai perso la storia di... Ah, ce l'abbiamo anche fuori da Oclica, li stiamo esportando. Questa è novità. Sono una cosa, raga. Che città, la visione che abbiamo avuto tutti quanti, che città era? Singida. Singida. Possiamo chiedergli cosa, se si sa qualcosa di Singida? Glielo vuoi chiedere? Sì. Ok, faccio finta che tu l'abbia chiesto. Singida, no, non mi dice niente. Né notizie sui giornali, né da altre fonti che possa aver sentito. Cosa sarebbe successo a Singida? Non si è saputo assolutamente nulla di Singida. No. Quindi sanno insabbiare bene? Oppure non sta succedendo? Ho paura che sia successo troppa roba e questo è out of character. Ho paura che sia successo troppo e magari non sono potuti andare in stampa i giornali, non lo so. Ma quando sarebbe successa questa cosa? Ti chiede. Ah, stanotte? Infatti, quindi non... lo so che per noi sono passati 3 mesi, ma per raga, loro no. È passato tipo un mese. 3 ore. Anche perché... Cioè, scusami, piccola precisazione, ho detto, se fossimo, cioè, noi siamo usciti dalla quarantena stanotte e non lo sanno ancora, quindi... È vero. Cioè... No, vabbè. Ci stava, e da Ivan secondo me poteva essere in carica. No, io la pensavo... Preoccupato! Farei 5 minuti di pausa, intanto che dico sta cagata. Pensavo stessi implicando time travel shenanigans, cioè che... Sta roba è successa nel passato e voi l'avete vista nel presente, capito? Oppure che ti aspetti che sia successa nel futuro. Vabbè, però era una sega mentale mia, ovviamente. Ah, sì, quello che pensavo essere all'inizio quando ci hai fatto vedere la visione. Però scusa, non ha avuto vita facile Liedro perché sono stati sammonati tutti... Sì, però Liedro non sa dove sono andati. Sì, no, esatto. Però di qua... Ah, vabbè... Stiamo supponendo un sacco di cose, ecco, diciamo esatto. Così. Se me lo fate sapere, cioè, aveva già in realtà proposto come informazione questa cosa, però non sa che avete avuto quella visione, quindi potreste fare 2v2. Quelli a cui lavori. Se chiedi di questa cosa di Singida, te lo potremmo dire, cioè ormai... Sì, vabbè, avete scambiato questa informazione, ora è pubblica. Avete condiviso questa informazione. E ho avuto una visione di morte e distruzione, comunque. Ah, ok. Magari lo dice KL, tipo, in tono molto piatto. Poverina! abbiamo visto morte e distruzione. Ci sono stati casi, ci sono stati casi anche a Falchena. Falchena, no, esplosione a Falchena non mi risulta. Credo ci sia stato un piccolo problema di altra natura legato alla centrale, legato più al personale. Di che tipo? Che problema c'è stato? Non si sa molto, ma a quanto pare qualcuno ha cercato di violare i protocolli. Oh. Qualcuno di esterno alla centrale? No, qualcuno della centrale. Oh. Però non so i dettagli, ovviamente. Prendo gli appunti. Me l'ha detto un mio amico commerciante che è stato a Falchena e mi ha raccontato questa storia. E cosa ha detto il direttore della centrale? Sembrerebbe essere proprio lui la causa dei problemi. Oh. Bene, vedete, Adone è un po' colore dal viso. Ah, oh, ma è ancora un processo aperto, questo genere di cose può richiedere mesi prima che si arrivi a una conclusione. La giustizia nell'impero è molto attenta a prendere in considerazione tutte le prove, tutte le posizioni, prima di condannare qualcuno a morte ce ne vuole. Quando il sarcasmo, vero? No, è serissimo. Davvero? Adone, lo vedete un poco distrutto in questo... Si mette proprio così, con la testa fra le mani. La parola chiave è condannare a morte. Cioè, le condanne a morte non si fanno. Sì, sì, l'abbiamo capito. Sì, sì. Invece. Per il resto sì, cioè. Avete coglioni, come minimo paghi. Cioè. Ok. Vi dico, se volete fare 5 minuti di pausa, io vado a prendere da bere, andiamo in bagno, facciamo tutte le cose e ci risentiamo. Va bene. Okay. Yeah. Vai, bella. Ica, stiamo cugini! Sfortunatamente per me... Ehi! Ho detto Ica! Non ho detto lieto! Vero. C'è ragione, scusami, ancora troppo in carica. Qua, non si... I'm sure. Mamma mia. Sono imparentato con un papa. Porco di... That's what you take from that! Sono imparentato con un papa. Il primo papa. Sì. Il primo papa. Incredibile. Già di più. Poi diventato un ometto, lieto. Sono lieto che tu sia diventato un ometto. No, io sono solo lieto. Wow. Non te l'hanno dato il cognome? Sì, Cadorna. Sì, Cadorna. Cadorna, Dio porco. Dai, ti fa la gif di quella di Aldo Giovanni e Giacomo e fa mamma la Cadorna. Esatto. Dai, io mi sei ma paga. Che poi realtà sai, però come faccio da solo? È impossibile, cioè non può funzionare. Mi sono tolta questo peso, finalmente. Bene. Anche stasera, Faithless, ha fatto il suo... Ragazzi, up five, possiamo chiudere. Grande, ottima sessione, ragazzi. Ica, io non ho capito una cosa. Cioè, scusatemi, io adesso mi sento stupido, ma non ho capito. Promezzi a Petri, zia di Naya, è la madre di Leto. Giusto? No. Ma allora, come... Ho capito io, raga. Cioè, okay. È un'altra persona che si fa chiamare Promezia all'interno della corona? Yes, a meno che lei non sappia riconoscere sua madre. Che a sto punto, sua zia. Esatto. No, prendeva sua madre di dietro. Esatto. Non ho capito. No, Naya ha visto... No, non ho capito. Se le due cose coincidessero, Naya non avrebbe riconosciuto... sua madre, a meno di non saperlo. No, Promezia Petri è la zia di Naya. Ok, sì. Sì, è lei. Ok. No, scusi, sono confuso. Eh? No, cioè, allora, hai detto una frase con una super cazzola, Ita, no, cioè... No, no, no. La zia di Naya... Correggimi se sbaglio, Biani, cioè zia di Naya è quella che andava a cattare gli artefatti. Promezia Petri, sì. Si chiama. Sì. Promezia Petri, yes, no, non è lei. Ah, ok. Siamo è un'altra così. Persona di cui è io non ho conoscenza. No. Ok. No. 50%. Canale, esatto. Come 50%? 50% di lei non sanno chi sia. Ok. Io finalmente posso mettermi l'anima in Sara, pace, ragazzi. Sono subito. Sara, mannaggia il signore che mi mandi l'emoji dell'angioletto con l'aureola. Ti ammazzo, mamma mia, ti faccio del male domani. Io salutate Mif, come... che è l'ultima volta che lo vedete. Io mi sento come se avessi sollevato 40 kg, raga. Sono proprio... Stanotte dormo come un bebè. Ho finito, io l'ho portata a casa. Ma come Naya Adone Fratelli? Cosa hai scritto? E hanno chittato la stessa posa così al bar. Ma no, raga, ma che cazzo sta facendo quell'altro? E sei tu che volevi le cose, eccotele. Scusate, se io scelgo i DILF, pazzi in culo. No, questa cosa assolutamente... Che dicevi no, spero che succeda qualcosa. No, ma deve succedere qualcosa ad Adone, no a Silas. Di rimando succede ad Adone. Allora, riavvio il computer visto che siamo in pausa.